al defunto parroco. Ma che devo fa? Non c'ho un cazzo da fa. Me vorrei imbriacare. No, no, no, no, no. Ma che devo fa? Non c'ho un cazzo da fa. Me vorrei imbriacare. La mamma shit before you break the hit and let you shit before you gonna hit. Non vorrei fare il tipo che si droga e dopo si vanta. Passerò per il tipo che subriaca e dopo canta. I metti da 90, forse anni 70, 80, 50. La gallina canta. Devo vedere come fare anche stasera un'altra sbornia. Vedo pure il leone delle cronache di Narnia. Sono ubriaco, fradicio e puzzo di fogna. Devo andare a prendere il da Yogurtlandia. 1,60€, costa 1,20€. Fa troppo per me, ma se proprio altrimenti cioccolato bianco, Kinder e noccioli in party. Mettici la panna sopra anche gli Smarties. Noi siamo grandi, non ti preoccuparti. Siamo più bastardi, apri un Bacardi. Siamo grandi, dedici, leggiti, leggiti, leggiti. Ma che devo fa? Non c'ho un cazzo da fa. Me devo imbriacare. Ma che devo fa? Non c'ho un cazzo da fa. Me devo imbriacare. Auto-tune the news. Come Tiziano Ferro sono sere nere nelle quali la carne ti va le seghe a bere. Quindi figlio di puttana fa il tuo dovere. Passami sta birra e cazzo riempimi il bicchiere negro. Lungo la via mi fermo al bar Mario. Ubicato dopo il seminario prima di cagare ogni tutto Mario. Voglio fare il pieno con un dromedario. Troppo riceverai il mio salario netto. Non vado a spese, sono cortese verso chi mi versa roba che riverserò nel gabinetto. E mi pronuncio, ricetto dal mente l'effetto che molti pensano che sia un gunshot. E non rinuncio ad un altro sorso. Prendo il telefono pronto, pronto, trovo il pronto soccorso. Lo scorso capodanno è stato piroclastico. Un muro riempito il pavimento di succo gastrico. Ma che devo fa? Non c'ho un cazzo da fa. Mi sto per imbriacare. Ma che devo fa? Non c'ho un cazzo da fa. Mi sto per imbriacare. È nuovo tempo. Qui è il vostro Tre Cani. Bevete responsabilmente. Io me ne sbatto il cazzo della sobrietà. Bevo così bene fuori la mia personalità. Sono un'età, i più greggi non sono molto egregi. Inoltre preferisco le viti ai ciliegi. Non arrivi a contare nemmeno fino a 10. Prima che abbia le pupille dilatate come Neji. Non importa dove, ma più importa come. Perché a bere sono forte come un 9-9 a Magic. Mi fermi un attimo, dicono dalla regia. Le pupille si dilatano solo con la Maria. Quindi ho detto una cazzata ma mi viene concessa. Perché io la birra la metto pure nella minestra. Confondo destra e sinistra, indietro avanti. A GTA non riesco più a fare il tuo guardo. In questo mondo non c'è male che di più ami. Sto come Oddo dopo la finale dei mondiali. Come? No, è altissimo, altissimo. Non capisco più niente. No, perché ci hanno messo una cesta di birra e non hanno sbagliato con la moto. Tatticamente sono stati proprio sì. Sì, me lo ricordo questa cosa qua. Beh, è d'oro, massiccio.